l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta come ogni sabato con il nostro appuntamento dedicato al percorso europeo, dedicato alla nostra Europa, attualità politica, economica, che viene raccontata giorno per giorno da Radio 24. Noi il sabato cerchiamo anche altri punti di vista, altre sfaccettature, l'Europa delle possibilità, l'Europa delle opportunità, senza nascondere i punti critici. Oggi anzi lo faremo anche abbastanza duramente, ma poi vogliamo anche capire quelle che sono le proposte, capire come l'Europa entri nella nostra quotidianità. Le coordinate per seguirci anche virtualmente: euronetplus.eu, il sito del network a cui apparteniamo e che vi invito sempre a visitare, perché ci sono dossier in tante lingue, ci sono dossier, approfondimenti, inchieste, interviste, insomma si racconta veramente l'Europa dal di dentro. Chiocciola Euronet Plus R24, oppure chiocciola Federico Taddia per seguirci su Twitter e Facebook, le nostre piazze virtuali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Ogni settimana un viaggio, oggi si parte dalla Bosnia. Tri su pitanja koja se u Bosni više ne koriste. Šta je radio tokom rata? Kako je tvoj muž? Kako je tvoj sin? Majka, svaka majka očekuje da dođe do posmrtnih ostataka, pa kost, onaj, zaista znači. Oggi in Bosnia sono tre le domande da non fare. Che facevi durante la guerra? Come sta tuo marito? Come sta tuo figlio? Questo è uno dei passaggi più toccanti di un bellissimo documentario realizzato da un regista italiano su una piccola casa di produzione. Sono quattro under 30 che realizzano documentari e si sono cimentati in questo Utero Srebrenica, un racconto della Bosnia di oggi, fatto attraverso chi non si arrende, chi non si arrende, chi non si rassegna a legare la memoria ai libri o ai numeri freddi e anonimi. Sono le mamme di Srebrenica, le mamme che in tutti questi anni stanno cercando i resti dei loro figli. Queste donne sono state raccontate attraverso questo documentario. C'è con noi il regista, diamo il benvenuto a Giuseppe Carrieri. Ciao Giuseppe. Buongiorno a voi, grazie per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori. Allora, una giovanissima casa di produzione, come ho detto, quattro amici, quattro colleghi, lavorate su tanti argomenti. Come mai la scelta di raccontare e di farlo in questo modo e di farlo soprattutto oggi, le donne, le mamme bosniache? Ma il principio che regge la storia di Utero Srebrenica fondamentalmente si racchiude nella volontà di fare un piccolo film sul senso della maternità. Abbiamo lavorato molto con l'immaginazione prima, e quando siamo arrivati in Bosnia poi abbiamo subito capito che il primo tassello di questa ipotetica opera su varie storie dedicate alle donne potesse essere perfettamente identificata, identificabile nel mondo uterino di queste donne straordinarie che hanno opposto una resistenza non solo civile ma anche sentimentale nel dopoguerra. E quando parlo di resistenza sentimentale parlo proprio di questo grande e disperato bisogno d'amore che passa attraverso il recupero dei resti più piccoli che si possono avere di chi si è creato. Quindi In Utero Srebrenica voleva essere innanzitutto questo, un film sulla maternità e sul modo di non avere limiti nell'amare i propri figli. Raccontare questa terra d'Europa, l'ultima terra dove c'è stata una grande guerra, credo che ci aiuti, ci insegni, ci dia un valore a quello che è anche il percorso dell'Unione Europea. Grandi contrasti, no? Si parla dell'Europa economica, si parla dell'Europa delle banche, poi l'Europa è questa, sono queste terre di confine, terre che aspettano anche di poter entrare forse un giorno all'interno dell'Unione. Lì c'è uno strano rapporto tra la memoria, sono passati 20 anni, ma per tante cose sembra ancora ieri. E qual è il rapporto con l'oltreconfine? Qual è il rapporto che hai toccato, che avete toccato con l'Europa? Come è vista? Ma l'Europa è un, diciamo, più come si può percepire nei paesi del Mediterraneo e in certi paesi dell'Europa centrale. L'Europa è un, come dire, una grande conchiglia esterna nella quale non ci si riconosce ancora. Non ci si riconosce perché comunque in ogni caso i Balcani hanno una specie di situazione extracontinentale, pur essendo continentali per una determinata trama culturale e storica che li ha visti sempre come una specie di prolungamento. Ma l'Europa essenzialmente negli occhi delle persone che abbiamo incontrato potrebbe essere ancora di più come un miraggio e la volontà di sperare in una specie di finale integrazione dopo tanti e troppi anni di disgregazione. Non è certamente quella dei Barroso, non è certamente quella dei Van Rompuy, non è certamente l'Europa dei politici. L'Europa che si legge negli occhi di chi si incontra è l'Europa di un futuro che possa essere quello della parità e non della discriminazione. Vincitore del premio giuria giovani del 6° Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, il film ha vinto diverse rassegne, tra cui il Festival di Al Jazeera, il Festival dei Diritti Umani di Ginevra. Avete seguito queste mamme che stanno raccogliendo i resti dei loro figli all'interno delle fosse comuni. Qual è la quotidianità di queste donne oggi? Cosa cercano, cosa sperano di trovare? Ma le donne essenzialmente cercano di trovare una sola cosa che poi è tutta la vita, ovvero la pace. La pace innanzitutto di poter in qualche modo riuscire a recuperare una confidenza con un figlio, anche se morto, riuscire ad avere la possibilità di fargli visita è già una situazione, come dire, di forte, sì, assolutamente. Però quello che io ho notato nell'intimità e nella spietata solitudine, perché è spietata veramente quando si perde tutti e si rimane non solo da soli, ma anche nel luogo della propria carneficina, quello che è sicuramente forte è rappresentato dalla loro mestizia coraggiosa, nel senso che non c'è una tristezza che si accompagna a una passività, se vogliamo, una tristezza che ha una sorta di lotta interna ed è un connubio, un ossimoro, una forza talmente paradigmatica che credo davvero di dire che aver fatto visita alle donne di Srebrenica oggi ci ha permesso di raccogliere come tesoro e patrimonio delle storie del nostro continente, dell'altra Europa o di questa nostra Europa, qualcosa che sia davvero importante condividere anche con chi quell'Europa ancora non la conosce bene. Mm-hmm. E i premi sono forse solamente la dimensione di chi è riuscito con pochissimi mezzi ma tanta volontà di più che di dimostrare qualcosa, di riuscire a, ripeto, a far capire che si può tramandare anche questo genere di storie. natiadocufilme.com/ital, sito per saperne di più, oppure su Caffè Babel c'è una bella intervista sia a Giuseppe che a Giancarlo Migliore, direttore della fotografia. E Giuseppe, so che ora sei in Norvegia, sei lì per raccontare un altro pezzettino d'Europa? Sì, assolutamente. Io saluto Giancarlo, Nicola Baraglia e anche Carlotta Maruccio, che sono gli altri componenti, insieme a Matteo Orbinati facciamo squadra con la Natia Docufilm, che appunto è una piccolissima casa di produzione, speriamo di poter non diventare grandi, ma di riuscire sempre a poter fare questo. Mentre per quanto riguarda la Norvegia, essenzialmente questo è più che un caso, volevo ringraziare Federico Taddia, perché se siamo in Norvegia è anche per merito suo, visto che stiamo facendo un piccolo ritratto di un italiano in Norvegia che tu dovresti conoscere bene, perché Luca Roncoroni, e quindi di conseguenza fantastica questa coincidenza che ci spinge a credere, come vedi, che le strade degli incroci sono assolutamente, siamo a Kautokeino, siamo sotto 25 gradi, stiamo cercando di fare un piccolo racconto di come si può costruire un teatro di ghiaccio. Credo che il ghiaccio in questo caso sia evidentemente la metafora di raccontare una storia, se per quanto effimera, emozionante, diciamo. Grazie davvero, insomma, questa è l'altra Europa che si ritrova anche. Assolutamente, un'altra Europa. Buon lavoro, grazie e complimenti per l'ottimo lavoro. Ciao e buon sabato. Grazie a voi per averci chiamato, grazie. Europost-it. Dibattito online con Vivian Reding. Nell'ultimo anno in tutti i paesi europei si sono susseguiti eventi e occasioni di dibattito organizzate per far incontrare rappresentanti delle istituzioni europee direttamente con i cittadini, in modo che potessero riferire loro suggerimenti, dubbi e domande sui temi che più interessano la cittadinanza europea e il futuro dell'Europa. Con il nuovo anno il dialogo non si ferma, anzi, prosegue online. Ovunque voi siate, se avete qualche domanda da porre alla vicepresidente della Commissione europea, Vivian Reding, potete farlo. Basta collegarsi il 16 gennaio alle 20 alla pagina su Google Plus della Commissione europea, plus.google.com/European Commission, e seguire il Google Hangout programmato per quella giornata. Potete anche mandare le vostre domande anche sulle pagine Facebook e Twitter della Commissione europea con gli hashtag AskReading e EUDebate. L'altra Europa. Ci sono passi in grado di cambiare un intero percorso. Sfide che richiedono un coraggio che non pensavi di avere. E amici che ti accompagneranno per tutta la vita. ANG al tuo fianco nella costruzione di un futuro in Europa. Cosa vuoi fare da giovane? Cosa vuoi fare da giovane? Si chiude con questa domanda questo spot dell'Agenzia Nazionale per i Giovani. Orgoglioso del mio nuovo incarico, farò di tutto per non deludere le aspettative con queste parole. Giacomo D'Arrigo ha commentato la sua recentissima nomina direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, l'ente pubblico nato nel 2006 per gestire in Italia il programma Gioventù in Azione, che si è concluso nel 2013 e che ora dovrà gestire il capitolo Giovani del più ampio programma Erasmus Plus, che proseguirà fino al 2020. E Giacomo D'Arrigo è qua con noi. Ciao Giacomo, benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Complimenti intanto per questa nomina che era tanto attesa, perché era da un annetto che la poltrona era vacante, vero? Da circa luglio, da luglio era vacante. Era attesa. Allora Giacomo, un bel impegno, perché come ho sintetizzato, ma adesso ci spiegherai meglio, l'Agenzia Nazionale dei Giovani è un po' il braccio operativo per quel che riguarda tutta quella fetta di fondi europei destinati ai giovani anche in Italia, giusto? Sì, sì, è la struttura che gestirà questa parte di risorse che la comunità europea mette a disposizione delle politiche giovanili e dei giovani per sviluppare attività e azioni, e faremo, come ho detto nelle prime parole, il massimo perché questo venga svolto al meglio, nella più assoluta trasparenza, chiarezza e linearità, e che produca soprattutto risultati utili all'Italia e per i giovani italiani. Agenziagiovani.it è il sito ufficiale, che è anche un po' il punto di riferimento. Poi ci sono anche altre coste, altre divagazioni, ma questo è il punto di partenza. Perché? Sì, ne approfitto pure per segnalare il nostro, che abbiamo pure un profilo Twitter, che ovviamente invito chi è interessato, chi è curioso, chi ha voglia di capire e scoprire quello che facciamo, che faremo o che potrebbe essere utile fare, a seguire sia il sito sia i nostri social, Facebook, Twitter. Sei lì da un paio di settimane, quindi credo anche tu stia un po' facendo conoscenza con quella che è l'agenzia, però quali sono le tue linee, quali sono i punti critici che già così a naso hai colto? Allora, io sono arrivato da pochissimo, ho nominato il 27 di dicembre, quindi in piene feste, e quindi fin quando non c'è stata possibilità di, diciamo, la riapertura degli uffici dopo l'Ifania, abbiamo cominciato a lavorare già a pieno regime. L'agenzia è una struttura molto interessante, può fare molte cose, ha fatto molto e ha gestito in maniera importante il capitolo che dicevi tu, Gioventù in Azione, che si è chiuso, l'ha gestito in maniera importante perché sono stati erogati la quasi totalità dei finanziamenti, nel senso non si è perso quasi un euro e tutto è arrivato nei territori, già questo è un grandissimo segnale. E adesso a noi aspetta una sfida più importante. Io penso che l'obiettivo non sia soltanto quello di gestire Erasmus Plus, ma sia anche quello di fare in modo che l'agenzia diventi un interlocutore istituzionale non soltanto sulle politiche giovanili, ma anche sulle politiche pubbliche rivolte ai giovani. Uh-huh. La struttura non ha in questo senso punti criticità, ho incontrato già chi lavora e chi lavorerà con me ed c'è molto entusiasmo, un'età media di giovanissimi, tantissime idee, e adesso tocca a noi incanalare tutto questo e portarlo nelle direzioni in cui vogliamo andare. In questi anni con l'Altra Europa abbiamo raccontato settimanalmente di scambi europei, di progetti di volontariato europeo, di bellissimi progetti nati sul nostro territorio grazie a questi finanziamenti, e quindi vi terremo d'occhio, perché insomma deve essere anche uno scambio, un po' la trasparenza, che è una parola che hai già utilizzato, ma soprattutto che l'informazione, che credo sarà uno dei tuoi punti forti, no? Perché le cose belle ci sono, le opportunità ci sono, bisogna riuscire a comunicarle, bisogna dare gli strumenti in mano ai giovani affinché questi fondi possano diventare altro, possano concretizzarsi nei progetti. Sì, noi come dire, vogliamo essere seguiti, nel senso che vogliamo essere seguiti non soltanto dalla stampa, ma da tutti i soggetti, i cittadini che vogliono, che hanno la voglia di l'interesse di farlo. Vogliamo essere seguiti per le cose che pensiamo di mettere in campo, per essere anche giudicati, monitorati, ma soprattutto perché vorremmo essere lo strumento o tra gli strumenti che fa conoscere quello che l'Unione Europea produce a favore dell'Italia e in particolare dei giovani italiani. Noi siamo abituati, soprattutto negli ultimi anni, per certi aspetti anche giustamente, a lamentarci dell'Unione Europea. La vediamo in certe occasioni come una matrigna, come qualche cosa che causa dei nostri mali, anche quando questo non è. E magari non cogliamo, non vediamo quelli che sono strumenti, opportunità, occasioni che la stessa Unione Europea mette a nostra disposizione. E siamo uno dei paesi fondatori, contribuiamo in maniera notevole a questa realtà istituzionale continentale, dobbiamo imparare a prendere, a utilizzare bene, al meglio, quello che l'Unione Europea mette a favore dei vari stati membri, e quindi ad alzare l'asticella di una sfida più in alto. Noi proveremo a fare anche questo, cioè a far conoscere quelli che sono strumenti e occasioni che l'Unione Europea, la Commissione Europea, il Parlamento Europeo mette a disposizione dei più giovani. La nuova guida al programma Erasmus Plus è già online sul sito agenziagiovani.it. Vi anticipo che il 25 e 26 febbraio l'agenzia sta organizzando un primo seminario di informazione, e poi il 17 marzo ci sarà il primo bando. Insomma, si entra nel vivo, dopo tante parole in questi mesi adesso è il momento di passare all'azione. Giacomo, ultima domanda: tu sei autore di un bel libro, L'Italia cambiata dai ragazzini. Chiudo con la domanda con cui abbiamo aperto: tu hai scelto cosa farai da giovane? Allora, prima di rispondere a questa domanda, dico: sul nostro sito metteremo tutto, e quindi anche per questo invitavo a seguirlo prima. Ci sono le guide, ci sono gli appuntamenti. Non faremo soltanto che arriva a Roma, staremo in giro per l'Italia, in tutti i comuni, in tutti i territori. C'è anche l'intervista della ministra per le politiche giovanili, ministra Chieng, che io stracondivido, è quella di fare a livello territoriale più possibile il maggior numero di informazioni, di contatti, di rapporti, e andremo su questa direzione. Io ho deciso di impegnarmi per quello che mi piace, per la mia passione, una grande passione che è per la politica, per l'impegno nelle cose in cui credo. Ho già iniziato a farlo da tanto tempo, spero di poterlo fare in quelli che sono i ruoli che man mano avrò la possibilità di coprire. Adesso ho deciso di fare il massimo impegno per l'Agenzia Nazionale per i Giovani. Perfetto, grazie e buona Europa, Giacomo. Grazie a voi e a chi ci ascolta, un saluto a tutti. Buon lavoro a te e a tutto il tuo team. Ciao. Europost-it. Borse di studio per lo sviluppo rurale. Grazie al programma Erasmus Mundus c'è la possibilità di ottenere borse di studio biennali del valore di 23.000 euro per partecipare al Master of Science, equivalente alla laurea specialistica, in sviluppo rurale, studiato dal punto di vista dello sviluppo degli aspetti socio-economici e istituzionali. Il programma di studi è gestito dall'Università di Ghent in Belgio e prevede 2 anni accademici in diversi istituti partner, sia europei che extraeuropei. Possono partecipare studenti laureati e si richiede una conoscenza matematica, scientifica e della lingua del paese che li ospiterà. Per candidarsi basta andare entro il 17 gennaio sul sito del master imrd.ughent.be, dove ci sono anche tutte le informazioni utili. E mettiamola la cultura al centro di questa Europa, non ci stancheremo mai di ripeterlo, lo vogliamo fare con convinzione, con ostinazione, e per scelta lo facciamo anche presentandovi quei progetti che ci sembrano particolarmente illuminati, come questo di cui sentite solo l'audio del promo. Si chiama Performigration, la gente è il territorio, ogni migrante è un performer, un progetto artistico internazionale finanziato col supporto del programma cultura dell'Unione Europea, che ha lo scopo finale di realizzare un'installazione artistica itinerante che toccherà 7 città, 4 paesi europei e il Canada, proprio perché è un progetto dedicato al rapporto con i paesi terzi, un progetto che si sta sviluppando ora e anzi stanno cercando le adesioni. Per capire bene di cosa si tratta e per capire chi può aderire, c'è con noi Paolo Granata, docente di gestione dei beni culturali presso la Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici dell'Università di Bologna, che è uno dei partner del progetto. Ciao Paolo, benvenuto all'Altra Europa. Sì, ciao a tutti, buongiorno ai vostri radioascoltatori. Cosa avete ideato? Qual è l'idea di base? Ebbene, siamo partiti proprio dall'idea di performance che dà il titolo al progetto, perché la condizione di mobilità, di cambiamento, di migrazione è un po' una performance, è un po' una condizione esistenziale che costringe l'essere umano a mettersi in gioco, a recitare una nuova parte, a rivedere se stesso in nuovo contesto. E abbiamo strizzato l'occhio a un vecchio assioma della grammatica generativa, semantica generativa: la mappa non è il territorio, proprio perché esiste un nuovo territorio che non corrisponde più ad uno spazio geografico, ad una carta geografica, ma è fatto dalle persone, è fatto dalla gente, la gente che si muove, la gente che è in movimento. Esiste quindi un'Europa che è molto di più di uno spazio geografico, è uno spazio di storie, di narrazioni, uno spazio simbolico che appunto deborda dai confini geografici. Uh-huh. Quindi la condizione di migrazione e di mobilità diventa un punto di partenza per riflettere sull'identità e sulla nuova idea di Europa che attraverso la cultura si vuole costruire. E per far questo state selezionando 7 artisti per rappresentare appunto le realtà coinvolte dal progetto in Europa e in Canada. Ci si può candidare, si possono mandare le proprie proposte entro il 21 gennaio, sì. Proposte di quale tipo? Abbiamo individuato diverse aree, espressioni artistiche, proprio perché il progetto vuole coniugare forme espressive artistiche tradizionali come la musica o la letteratura con espressioni artistiche più attuali come la intermedia art o la video art. Quindi ci si può candidare con queste diverse tipologie che sono appunto l'arte, la letteratura, il cinema, l'arte interattiva, la videoarte, individuando una delle città che saranno toccate dalla installazione interattiva, perché lo scopo del reclutamento di questi 7 artisti è proprio quello di dar vita ad una sorta di mappa, ci piace chiamarla anche così, una mappa artistica interattiva che toccherà 7 città, 4 in Europa e 3 in Canada, e questa mappa sarà proprio formata grazie a questo team creativo, al lavoro collaborativo formato dai 7 artisti che stiamo per selezionare, coadiuvato da un team di operatori culturali addetti al settore appartenenti ai 16 partner che hanno appoggiato il progetto. Quindi 7 artisti tra Europa e Canada con diverse forme espressive, certo, dalla letteratura alla musica, al film, all'arte e alla videoarte. Ricordaci il sito internet per tutte le informazioni per le candidature. www.performigrations.eu in più lingue, con tutte le informazioni del caso, con il modulo per proporre la propria candidatura. La lingua veicolare è l'inglese, proprio perché naturalmente la natura del progetto prevede un lavoro di collaborazione con artisti e operatori da tutto il mondo. Buon lavoro, ci ritroveremo sicuramente nei prossimi mesi per conoscere lo sviluppo del progetto. Ciao e buon sabato, Paolo. Grazie, ciao a tutti, ciao. L'altra Europa. Ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede l'Europa. Finalmente mio amante non starà sotto al letto, questo fatto è lampante, il pretesto perfetto. Tornerà mio marito, nero come un bisonte, urlerà mi hai tradito, gli dirò accomodante. Me lo chiede l'Europa, me lo chiede l'Europa, me lo chiede l'Europa. Ancora buona sabato da Federico Taddia, riapriamo con gli sgommati dopo le notizie, per fortuna buone notizie che arrivano da Matera. Comunque continuerà l'aggiornamento minuto per minuto da parte di Radio 24. Noi invece abbiamo riaperto con gli sgommati, perché questa Europa delle opportunità, delle possibilità che ci piace raccontare, un'Europa anche che a volte si nasconde dietro alle direttive, dietro ai regolamenti, dietro ai programmi, dietro alla burocrazia, e di conseguenza questo lo fanno anche le singole nazioni, vedi per esempio la nostra Italia. Ce lo chiede l'Europa, il titolo di un ottimo e approfondito dossier realizzato dal mensile Altra Economia, dalla tortura agli OGM, 14 schede sul rapporto tra legislazione italiana e Unione Europea. Hanno fatto un lungo lavoro per andare a vedere qual è quello stretto rapporto che c'è tra Italia e Unione Europea, un rapporto a volte schizofrenico. Basti pensare che l'Italia detiene il record per il maggior numero di infrazioni a suo carico aperte dall'Unione Europea, 110, però l'Italia su altri argomenti di solito è il primo a correre per adeguarsi. Insomma, veramente un rapporto complicato, e per fare un po' di luce abbiamo con noi il realizzatore del dossier. Diamo il benvenuto a Duccio Facchini di Altra Economia. Ciao Duccio, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Un lunghissimo lavoro, quanta carta, quanta carta, quanti documenti hai dovuto leggere, credo, per cercare di mettere ordine e realizzare queste 14 schede. Qual è la prima cosa che salta all'occhio nello studiare, nell'analizzare questo matrimonio tra Italia e Unione Europea? Ma come dicevi giustamente tu, diciamo così, che c'è una difficoltà di approccio legata a una legislazione e a una macchina legislativa, in questo caso italiana, nel recepimento di direttive europee, che non è certamente, come dire, facilitante nell'approfondimento di questi temi. Dall'altra parte emerge comunque, ma questo credo che sia insito nella natura dell'attuale Unione Europea, anche dall'altra parte, quindi dalla fonte normativa, una difficoltà, la definirei una giungla di atti, di documenti da consultare, ma che è necessario consultare appunto per rispondere alla questione che tu hai ben introdotto, cioè come funziona il rapporto, il ritornello ce lo chiede l'Europa. Uh-huh. E per quel che abbiamo potuto verificare noi su Altra Economia nel numero di gennaio, è un rapporto, come dire, bifronte. Da una parte abbiamo un paese, il nostro, che conferma un fisiologico ritardo nell'adeguarsi e nel rispettare la normativa europea, su cui peraltro poi sarebbe bello anche discutere tema per tema. Sì. Dall'altra parte invece è un paese che immediatamente e quasi senza nemmeno discutere il ce lo chiede l'Europa si adegua, facendo proprie misure, diciamo così, sulle quali sarebbe bene articolare un ragionamento, perché sono misure che investono direttamente politiche di bilancio. Quindi a volte diventa una sorta di alibi o una scorciatoia, dici, per prendere decisioni magari anche affrettate, altre volte invece si fa finta di ignorare quello che dice l'Europa perché è scomodo andare ad adeguarsi. Assolutamente sì, ma faccio un esempio molto pratico. Sì. Il paese dove il ritornello ce lo chiede l'Europa, diciamo così, è piuttosto inflazionato, è lo stesso che per ben 2 anni, a seguito di crisi di governo, quindi ricordiamo tutti fine 2011, quasi alla fine del 2011 con la fine del governo Berlusconi, e alla fine del 2012 con la fine del governo Monti, noi non abbiamo approvato le cosiddette leggi europee, cioè le cosiddette le ex leggi comunitarie, cioè le leggi che permettono allo Stato-nazione di recepire, di fare proprie o di corrispondere a indicazioni europee all'interno del proprio ordinamento legislativo. È piuttosto singolare che di questo non si sia affatto discusso, eppure il ce lo chiede l'Europa in questo caso sarebbe stato, come dire, imperativo. Qui non è valso. Allo stesso modo invece è valso nella primavera del 2012, quando il nostro paese ha, per esempio, apportato in Costituzione il principio del cosiddetto pareggio di bilancio sulla base di un trattato votato e ratificato non più tardi di un mese prima. Quindi, come dire, è un rapporto molto problematico. Dalla qualità dell'aria alle politiche di immigrazione, dalla pesca alle carceri, dal reato di tortura alle trivelle sotto costa, parlando per la biodiversità o l'evasione fiscale, sono alcuni dei temi che hai analizzato nelle 14 schede. Ovviamente non possiamo parlare di tutto, volevo chiederti però se c'è un esempio virtuoso e un esempio particolarmente critico che secondo te sono emblematici di questo ambivalente rapporto. Allora, considerate che il lavoro che abbiamo fatto noi, come dicevi anche tu, sulle 14 schede corrisponde ad una scelta. È chiaro che i temi toccati dalla legislazione europea non sono 14, ovviamente, ma corrispondono in qualche modo a una nostra, come dire, a una nostra lettura editoriale anche dei temi a noi quantomeno cari, quindi l'economia solidale, i diritti e gli stili di vita sostenibili. In questo caso, allora, dal punto di vista dell'Europa virtuosa che c'è e non va negato, questo lo dico anche perché insomma quest'anno sarà insomma si va a votare per il Parlamento europeo, quindi lungi da me in qualche modo legittimare tendenze diciamo qualunquiste e antieuropeiste di partenza. Quindi mi piace ricordare e sottolineare aspetti positivi, in questo caso legati ad un tema sacrosanto come quello della dignità umana e quindi il tema delle carceri. Sì. L'Italia, se entro maggio 2014 il nostro paese non si adegua a una precisa sentenza cosiddetta EU pilot, nel senso sentenza pilota, la sentenza sul caso Torregiani del maggio 2013, non solo sulle condizioni di sovraffollamento, che è in qualche modo il primo e più discusso problema delle carceri, ma anche e soprattutto sulla qualità della vita all'interno delle strutture carcerarie, un paese in cui ci sono 63.000 detenuti su 37.000 posti a disposizione, ecco, rischia di vedersi recapitato sul capo un numero tutt'oggi indefinito di ricorsi che potrebbe, dai nostri calcoli, portare ha delle multe, in questo caso non europee, ma derivanti da processi, derivanti dai ricorsi, pari a 4 miliardi di euro. Quindi in questo caso è un'Europa, dal nostro punto di vista, positiva, è un'Unione Europea positiva, quella che indica una strada per risolvere ad un problema vergognoso, quale quello delle carceri italiane. Sì. Così come mi permetto di collegare anche il tema del reato di tortura. Certo. Cioè il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura da anni sta invitando il nostro paese a introdurre nel proprio codice penale la fattispecie di reato di tortura, a seguito peraltro anche di una convenzione ONU dell'84. Ecco, in questi casi il ce lo chiede l'Europa, i sostenitori del ce lo chiede l'Europa appaiono distratti. Dall'altra parte invece, se posso permettermi, un esempio di Europa dal nostro punto di vista negativa è l'Europa che che invia, in questo caso con la Banca Centrale Europea, una lettera al primo ministro, al ministro dell'economia, allora erano Berlusconi e Tremonti, sto parlando di casi a noi molto lontani, però insomma invia una lettera in materia di servizi pubblici locali, dove si fa promotrice di una concorrenza assolutamente smodata, in cui il pubblico è condannato ad un ruolo limitrofo e limitato. Oppure è l'Europa che rimpatria, in questo caso cambio argomento, parlo di migranti, è l'Europa fortezza dell'agenzia Frontex e dei programmi Mare Nostrum per rispondere al dramma delle migrazioni e soprattutto ad una scelta libera di persone che decidono di provare a cambiare vita. Ok, oppure, chiarissimo e veramente avete insomma che anche un po' la capacità poi del vostro mensile, no? Siete riusciti a raccontare l'Europa a seconda dei vostri temi a cui siete cari e sono temi di cui troppo spesso si parla poco, ci si dimentica, anche qui perché a volte è comodo non parlarne. Ricordiamo quindi che nel numero di gennaio di Altra Economia c'è questo bel dossier che vi consiglio, perché è una lettura, è un punto di vista e come sempre vuol dire contribuire a creare cultura nuova sulla nostra Europa. Ce lo chiede l'Europa, un grazie a Duccio Facchini, ciao Duccio, buon sabato. Grazie a voi, buon lavoro. Europost-it. Tirocini per traduttori in Lussemburgo. Giovani aspiranti traduttori, attenzione! Sono aperte le candidature per la nuova sessione di tirocini di traduzione retribuiti del Parlamento Europeo in Lussemburgo. L'opportunità è interessante anche perché c'è la possibilità di partecipare anche se si ha solo il diploma di scuola superiore. I tirocini sono retribuiti, per i diplomati circa 300 euro, per i laureati 1200 euro. I più giovani possono fare da 1 a 3 mesi di esperienza, mentre per i laureati la durata è fissata a 3 mesi. La partenza è prevista per luglio 2014, mentre la scadenza per la candidatura è il 15 febbraio. Trovate tutte le informazioni sul sito europarl.europa.eu alle voci tirocini di traduzione e tirocini di formazione alla traduzione. Questi sono i nostri Europost-it, vi ricordo che potete ritrovarli e riascoltare l'intera puntata dal nostro sito radio24.it, oppure il link li trovate sulle nostre piazze virtuali Facebook e Twitter. Questa è l'Europa, ce lo chiede l'Europa, e poi c'è l'Europa anche creativa, a volte un po' troppo, che cerca di così superare la crisi anche in maniera eccentrica. Per esempio a Malta ormai è tutto pronto, bastano 650.000 euro per comprare la cittadinanza europea, e da questa idea è partito un bellissimo articolo di Vittorio Darold sul Sole 24 Ore. Europa in saldo, Italia, Grecia, Spagna and company, i gioielli di famiglia vanno all'asta. E Vittorio Darold è qua con noi, ciao Vittorio, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. 650.000 euro, così a spanne, un buon prezzo per acquistare la cittadinanza, così. Sì, sì, è veramente un buon prezzo, un prezzo di saldo, perché la cittadinanza europea viene venduta, se così possiamo dirlo, anzi si dice con visti d'oro, da altri paesi, tra cui la Gran Bretagna, il Portogallo, la Grecia, Cipro, Spagna, ma tutti questi pongono delle condizioni, cioè ti chiedono o di fare un investimento rilevante, sì, o di risiedere per almeno un periodo di tempo nel paese appunto che ti concede la cittadinanza, di solito sono almeno 6 mesi. Ecco, Malta ha fatto un salto in questo dumping della cittadinanza europea, non chiedendoti né di fare degli investimenti né di risiedere nell'isola, ma semplicemente di pagare una cifra per avere la cittadinanza, cioè il passaporto con cui tu puoi andare, grazie a Schengen, perché Malta è in Schengen, in tutti i paesi europei. Quindi per la prima volta l'Europa mette in vendita la sua stessa cittadinanza. L'altra Europa. Eccoci qua ancora con Vittorio Darold. Vittorio, abbiamo scherzato, insomma, il tono che abbiamo tenuto è anche leggero, però c'è tanta preoccupazione a Bruxelles per quello che sta accadendo, per quello che accadrà a Malta. Sì, perché tu metti in qualche modo all'asta un principio, un diritto alla cittadinanza europea, cercando appunto di fare una sorta di dumping, cioè di ridurlo e di farlo pagare il meno possibile rispetto ad altri stati che fanno simili proposte. Questo in qualche modo va un po' contro il principio europeo, che la cittadinanza dovrebbe essere gestita in maniera uguale da certo. parte di tutti i membri. È come se il Texas vendesse il passaporto americano, o la California lo facesse in un modo meno costoso. E questo va un po' contro il principio europeo. Malta si è dato come obiettivo quello di vendere circa 1800 passaporti per un guadagno di 1 miliardo di euro, quindi insomma che è un terzo del PIL, quindi insomma cifre rilevanti. Ma su questa onda tu hai scovato altre operazioni simili in giro per l'Europa, vero? Sì, esattamente, cioè per cercare di rispondere alla crisi del debito sovrano e quindi ridurre le spese, l'Europa ha chiesto naturalmente attraverso vari meccanismi di ridurre gli sprechi. Questo era il principio che chiedeva Bruxelles, cioè di ridurre le spese inutili. In realtà ad esempio in Grecia hanno messo in vendita le sedi dei ministeri e della polizia per 145 milioni, ma a questo punto poi dovranno andare in locali in affitto e quindi ci sarà una spesa ulteriore, quindi non si risolve il problema in maniera strutturale, ma si ha semplicemente un sollievo per l'anno in cui incassano naturalmente la vendita. Oppure la Polonia, che ha deciso di espropriare dei meravigliosi castelli che sono un patrimonio veramente dell'umanità, alcuni di loro sono veramente stupendi, e appunto li vorrà mettere in vendita quest'anno 30 castelli nella Pomerania, che sono veramente fantastici. Hai dato un'occhiata ai prezzi, confessalo. Ho dato un'occhiata ai prezzi, i prezzi sono veramente da saldo, come puoi immaginare, perché la Polonia ha appena avuto dei problemi vendendo con la previdenza privata e incassando, creando vari malumori nei contribuenti che avevano fatto una loro previdenza privata e poi si sono visti invece trasformarla in previdenza pubblica. Non è stato un facile risveglio quel giorno. La Spagna, che addirittura ha chiuso la TV pubblica valenciana, in questo anche la Grecia ha fatto lo stesso, chiudendo la televisione pubblica. Qui naturalmente cosa si mette in vendita? Il pluralismo dell'informazione. Anche qui è un meccanismo che l'Europa non chiede di mettere in discussione l'identità di Europa. L'Europa è un luogo dove appunto ognuno deve sentirsi difeso nelle varie identità, di cui appunto la TV pubblica valenciana era un esempio, ma anche qui si fa qualcosa di un po' stravagante e non richiesto. Per riprendere il vostro discorso di qualche momento fa, non ce lo chiede affatto l'Europa. Esatto. Addirittura a Cipro hanno venduto delle case, questo è un fatto fantastico, delle case che sono state acquistate ad esempio da investitori per lo più stranieri, per i ritardi burocratici non sono stati dati gli attestati di proprietà. Il proprietario quindi si trova oggi in conflitto con le banche, perché nel frattempo, a causa della crisi, molti imprenditori che avevano costruito le case sono falliti e quindi le banche rivendicano delle case, degli immobili che sono già state pagate ma non sono state ancora iscritte al catasto. Quindi Cipro deve decidere se salvare gli interessi delle banche o quello di un paese sicuro per gli investitori. Anche qui l'Europa non chiede di fare scelte del genere. Assolutamente. Grazie davvero. L'Europa in saldo, Italia, Grecia, Spagna in coi, gioielli di famiglia vanno all'asta. Questo è il bel pezzo che abbiamo già linkato sulle nostre piazze virtuali di Vittorio Darold del Sole 24 Ore, che salutiamo e ringraziamo. Ciao Vittorio, alla prossima. Grazie a voi. Ciao. Mondia mai mente a rosa. Forgo tu quindi lo voglio cattivo lo uso siano. Lucifer e Prabha se li Adamo ti civa tu egy ennek a tiltó gyümölcsét. De Adam két kedve visszakérdez. De hát ha megcsalsz. Egy éven belül gyereket szeretnék és esküvő. Jó, jó. E poi per fortuna c'è anche un'Italia, un'Italia e un'Europa, c'è un'Europa che ride. Europa che ride è il titolo di una rassegna che si è aperta ieri. Quello che state ascoltando è il trailer di un film, Polygamy, un film ungherese. L'Europa che ride, un progetto all'interno di un ampio e lungo percorso che si intitola Il ratto d'Europa. Per capire di cosa stiamo parlando c'è con noi Claudio Longhi, regista e ideatore del Ratto d'Europa. Ciao Claudio, benvenuto all'Altra Europa. Grazie, buongiorno. C'è quindi c'è un'Europa che ride? Pronto? C'è un'Europa che ride? Sì, c'è un'Europa che ride, ci stiamo provando a cercarla. Allora, Claudio, in sintesi, ricordaci, ne abbiamo già parlato in passato, però il ripasso è sempre utile, che cos'è questo Ratto d'Europa? Perché è da un paio d'anni ormai che sta camminando questa Europa attraverso il vostro progetto. Certo. Il Ratto d'Europa è un progetto che punta a coinvolgere una città, in questo caso Roma, l'anno scorso era stata Modena, in un processo creativo che porti alla creazione di uno spettacolo, il cui tema è per l'appunto un'interrogazione sul radicamento dell'identità europea nella nostra cultura italiana, cioè ci sentiamo o non ci sentiamo europei, se sì perché, se no perché. Mm-hmm. E all'interno di questo progetto è nato l'Europa che ride, organizzato da EUNIC, che è l'associazione che riunisce gli istituti di cultura nazionali dell'Unione Europea. Si è aperto ieri una rassegna che continuerà fino, se non erro, al 2 febbraio, dico bene? Sì? Ok. E, dove avete selezionato dei film con delle specificità molto particolari e molto delineate. Esatto. È una nostra abitudine come Ratto d'Europa incontrare all'interno delle città svariati interlocutori, e fra questi interlocutori c'è stato anche nelle settimane scorse il Goethe Institute. Parlando col Goethe Institute e cercando di capire che cosa potevamo fare assieme, è nata l'idea da parte del Goethe di proporre una rassegna cinematografica, per l'appunto L'Europa che ride, che proponesse una collezione di film europei che fossero radicati all'interno delle tradizioni, delle identità nazionali, e che al tempo stesso affrontassero con un velo di ironia o di autoironia le idiosincrasie, le passioni, le fobie delle singole nazioni europee. E quindi è nata l'idea di una rassegna, per l'appunto, che ha immediatamente coinvolto anche l'EUNIC, ossia la rete degli istituti di cultura dei paesi europei, e la Casa del Cinema. E abbiamo individuato una serie di 8 film, le proiezioni sono tutti fine settimana, il venerdì e la domenica, in pomeridiana e in serale. Una rete di 8 film, dicevo, che hanno come peculiarità, per l'appunto, quella di analizzare i profili delle culture dei diversi paesi, si va dall'Ungheria alla Spagna, alla Germania, all'Austria, alla Slovacchia, cercando per l'appunto la sfumatura ironica, la patina di sorriso. Certo, insomma il tema della commedia, che poi racconta quelli che sono i nostri vizi, quelle che sono le nostre virtù, ma nostre come europee, quindi nazione come europei, nazione per nazione, si va proprio a giocare, a raccontare su quelle che sono le identità, per creare incontro, contaminazione, differenza, innamoramento e a volte anche fastidio, che ci sta. Tra l'altro, dicevi? Una delle caratteristiche, diciamo uno dei possibili fil rouge che lega molti di questi film, è che all'interno delle pellicole culture diverse vengono messe a confronto. Mm-hmm. Penso per esempio a un film come Nati in Assurdistan, che arriva dall'Austria, in cui abbiamo una coppia di genitori austriaci e una coppia di genitori turchi, che si ritrovano in una vicenda intrecciata perché le rispettive mogli puerpere, perché stanno appena partorendo, si trovano all'interno di una stessa camera di casa di clinica. O penso a un film come Kebab Connection, che arriva dalla Germania, in cui il mondo turco è messo a contatto con il mondo tedesco, quindi c'è continuamente uno sguardo, probabilmente in Europa oggi, di rapporto con l'altro e con la differenza. Mm-hmm. E allora, i film sono, la rassegna prevede proiezioni il venerdì e la domenica, e quindi c'è la possibilità di accedere, tra l'altro, gratuitamente. Tutto ciò succede a Roma, presso la Casa del Cinema, se non erro, sì, presso la Casa del Cinema. E il sito internet è ilratodeuropa.it, lì c'è l'intero programma, tra l'altro di questo, ma anche di quello che è il rapporto tra Commissione Europea all'interno del nuovo progetti, all'interno del nuovo programma Europa Creativa. Domani se ne parla anche sul domenicale del Sole 24 Ore all'interno della rubrica di Silvia Bernardi Più Europa, quindi per gli approfondimenti vi invito a leggere domani l'articolo. Claudio, prima di salutarci, al di là dell'Europa che ride, al di là dello spettacolo teatrale che avete realizzato lo scorso anno, al di là dei 1000 progetti legati al Ratto d'Europa, è facile raccontarla in maniera calda, in maniera nuova, in maniera creativa, questa Europa? Lì per lì non è facile, però dà anche tante soddisfazioni, nel senso che purtroppo la percezione che abbiamo sempre più radicata dell'Europa è quella di una sorta di spauracchio o concretizzazione della minaccia di una perpetua crisi. Quando però si comincia a cercare un modo nuovo di raccontarla, raccontarla attraverso le sue strade, i viaggi, l'incontro tra le lingue, l'incontro fra le culture, ci si accorge che la risposta da parte delle persone arriva immediatamente. E c'è, perfetto. Insomma, è l'Europa delle possibilità che ci piace raccontare. Grazie davvero, ciao e buon lavoro. Questo grazie a tutti voi che siete stati in nostra compagnia. Un grazie alla squadra: Margherita Ine, Giorgio De Luca, Carmelo Lauricello, oggi alla parte tecnica, radio24.it, oppure Federico Taddia su Twitter e su Facebook per seguirci anche durante la settimana. L'appuntamento, come sempre, a sabato prossimo. Ciao! L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.